Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Stava avvicinandosi il momento in cui la notizia andava ulteriormente diffusa e saggiata l'accoglienza altrui. Appena la signora Weston si fu abbastanza ristabilita per ricevere il signor Woodhouse, Emma, ritenendo che il suo quieto modo di ragionare andasse impiegato a tale scopo, decise di annunciare il matrimonio prima a casa, poi a Randalls. Ma come dirlo finalmente a suo padre? Con tutto il brio di cui poteva disporre, cominciò a prepararlo a qualcosa di straordinario. Poi, in poche parole, disse che qualora fosse stato possibile ottenere il suo consenso e la sua approvazione, cosa che confidavano sarebbe stata difficile, rispondendo al proposito di favorire la felicità di tutti, lei e Mr. Knightley intendevano sposarsi. In tal modo, Hartfield avrebbe ricevuto lo stabile completamento della compagnia di una persona che gli sapeva cara, dopo le figlie e Mrs. Weston, più di qualunque altra al mondo. Poveretto! Fu a tutta prima un grave colpo e fece di tutto per dissuaderla. Le ricordò più di una volta che aveva sempre dichiarato di non volersi sposare mai. Le assicurò che sarebbe stato infinitamente meglio per lei rimanere nubile. Le parlò della povera Isabella e della povera Miss Taylor, ma non serviva. Emma si curvava su di lui piena di affetto e sorrideva e diceva che così doveva essere e che non doveva classificarla insieme a Isabella e a Mrs. Weston, i cui matrimoni, allontanandole da Hartfield, avevano sì prodotto un cambiamento malinconico. Lei sarebbe sempre rimasta. Non avrebbe cambiato nulla né nel numero né nel benessere generale della famiglia, se non per il meglio. Ed era certissima che, una volta abituatosi all'idea, egli sarebbe stato mille volte più felice di aver sempre sotto mano Mr. Knightley. Non voleva molto bene a Mr. Knightley? Non poteva negarlo. Emma ne era sicura. Chi mai desiderava consultare in questioni d'affari se non Mr. Knightley? Chi più amabile o premuroso o affezionato a lui? Non gli sarebbe piaciuto averlo sempre sul posto? Sì, tutto verissimo. Mr. Knightley non sarebbe mai venuto troppo spesso ad Hartfield. Sarebbe stato lieto di vederlo tutti i giorni. Ma anche così tutti i giorni lo vedevano. Perché non andare avanti come s'era sempre fatto? Riconciliare Mr. Woodhouse non era possibile così di punto in bianco. Ma il peggio era superato. L'idea era stata lanciata e il tempo e la continua ripetizione avrebbero fatto il resto. Alle suppliche e assicurazioni di Emma seguirono quelle di Mr. Knightley, il cui vibrante elogio di lei rese perfino ben accetto l'argomento. E ben presto si adattò a lasciarsi blandire, or dall'uno, or dall'altra, alla prima occasione propizia. Ebbero da Isabella tutto l'aiuto che poteva dare con lettere della più calda approvazione. E al primo incontro Mrs. Weston procurò di presentare la cosa sotto la luce più vantaggiosa. Prima di tutto come cosa fatta, in secondo luogo come cosa buona, ben sapendo che per la mente del signor Woodhouse le due raccomandazioni avevano su per giù lo stesso peso. Ci si accordò su quanto andava fatto. E poiché tutti coloro dai quali Mr. Woodhouse era solito farsi guidare lo assicuravano che era per il suo bene, ed avendone egli stesso quasi la sensazione, cominciò a pensare che prima o poi, fra un anno o due, non sarebbe forse male che il matrimonio avvenisse. Passò il tempo, ancora qualche domani, e la comitiva di Londra sarebbe arrivata. Era un avvenimento preoccupante. E un mattino Emma ci stava pensando come a qualcosa che le avrebbe portato non poca agitazione e dolore, quando Mr. Knightley entrò e i pensieri tristi dileguarono. Dopo la prima chiacchieratina di piacere, egli tacque. Poi, in tono più grave, cominciò. «Ho qualcosa da dirle, Emma. Qualche novità. Buona o cattiva?» domandò lei rapidamente guardandolo in viso. «Temo», disse lui dominandosi, «temo molto, cara Emma, che non sorriderà quando l'avrà sentita». «Davvero? Ma perché? non riesco a immaginare nulla che piaccia a lei o la diverta e che non debba piacere a me o divertirmi. C'è un argomento, rispose lui, sul quale non la pensiamo allo stesso modo. Si interruppe un momento, sorridendo ancora con gli occhi fissi nei suoi. Non le viene in mente nulla, non ricorda? Harriet Smith. Al nome le guance di lei si imporporarono e sentì paura di qualcosa, pur non sapendo di che. Le ha dato notizie di sé stamattina? Domandò Knightley. Immagino di sì e che sappia tutto. No, no davvero. Non so nulla, dica, prego. Vedo che è preparata al peggio. Harriet Smith sposa Robert Martin. Emma diede un balzo al quale non si sarebbe detto che fosse preparata, e i suoi occhi intenti dicevano «No, è impossibile!» Ma le labbra non si schiusero. «È così, infatti!» continuò Mr. Knightley. «L'ho saputo dallo stesso Robert Martin!» Emma continuava a guardarlo con stupore parlante. «Lei mi fraintende!» rispose Emma con uno sforzo. «Non è che questa circostanza mi possa rendere infelice ora, ma è che non riesco a crederla!» Oh, sembra assurdo. Non vorrà mica dire che Harriet Smith ha accettato Robert Martin. Non vorrà mica dire che lui l'ha nuovamente chiesta in moglie. Vuol soltanto dire che ha intenzione di farlo. Voglio dire che l'ha fatto, rispose Mr. Knightley con sorridente ma ferma decisione, e ha ottenuto risposta affermativa. Buon Dio! Esclamò lei. Poi, ricorrendo al cestino da lavoro come a un pretesto per abbassare la faccia, «Beh, ora mi dica tutto. Faccia in modo che capisca. Come, dove, quando, mi dica tutto. Non sono mai stata più sorpresa, ma le assicuro che infelice non mi rende. Come è stato possibile?» 3 giorni fa Robert Martin è andato a Londra per affari e io gli ho affidato certe carte che desideravo mandare a John. Consegnatele a John, nel suo ufficio, mio fratello l'ha invitato a unirsi quella sera stessa alla loro comitiva, che era diretta all'anfiteatro di Astley, insieme coi 2 figli maggiori. La comitiva sarebbe stata composta da mio fratello, mia cognata, Henry, John e Miss Smith. Il mio amico Robert non ha saputo rifiutare, così sono andati a prenderlo e si sono divertiti un mondo. Mio fratello l'ha invitato a cena per il giorno dopo, cosa che egli ha accettato, e nel corso di tale visita, a quanto mi risulta, ha trovato modo di parlare ad Harriet. E non invano. Accettando la ragazza, l'ha reso felice come merita. Ecco quanto posso dire sul come, il dove e il quando. La sua amica Harriet, quando la vedrà, le narrerà una storia molto più lunga e le darà tutti i particolari minuti che solo il linguaggio femminile può rendere interessanti. Nelle nostre comunicazioni, noi uomini ci teniamo sempre sulle generali. Pochissimi giorni dopo, la comitiva di Londra arrivò e, appena poté passare un'ora tu per tu con Harriet, si rese perfettamente conto che Robert Martin aveva soppiantato in tutto e per tutto Mr. Knightley e rappresentava ora il suo ideale della felicità completa. Harriet era un po' confusa. A tutta prima aveva un'aria un po' smarrita, ma una volta riconosciuto che era stata presuntuosa e sciocca e che si era stoltamente ingannata, confusione e smarrimento parvero cessare insieme con le parole e lasciarla senza rimpianti per il passato e nella massima esultanza per presente e futuro, giacché, quanto all'approvazione della sua amica, Emma aveva cacciata subito ogni paura del genere salutandola coi rallegramenti più incondizionati. Harriet fu ben felice di narrarle in tutti i particolari la serata ad Astley e la cena del giorno dopo e poté soffermarvisi con la massima gioia. Ma che cosa spiegavano quei particolari? Il fatto era, come Emma poteva ora riconoscere, che Harriet aveva sempre voluto bene a Robert Martin e che l'avere egli continuato ad amarla era stato irresistibile. Al di là di questo, a Emma la cosa sarebbe sempre rimasta incomprensibile. Prima della fine di settembre, Emma accompagnò Harriet in chiesa e la vide unirsi a Robert Martin con una soddisfazione piena che neppure il ricordo, anche quello legato al reverendo Elton che stava loro davanti, poteva turbare. Robert Martin e Harriet Smith, l'ultima coppia delle tre a fidanzarsi, furono i primi a unirsi in matrimonio. Il mese intermedio fu quello fissato, per quanto si poteva presumere di fissare, da Emma e Mr. Knightley. Avevano deciso che il loro matrimonio dovesse celebrarsi mentre John e Isabella erano ancora ad Hartsfield, per consentire loro l'assenza di una quindicina di giorni per un viaggio al mare, come era nei piani. John e Isabella e ogni altro amico furono concordi nell'approvarlo. Ma il signor Woodhouse? Come indurre il signor Woodhouse a dare il suo consenso? Lui che non aveva mai alluso a quel matrimonio se non come a un avvenimento lontano. La prima volta che lo si sondò su questo punto ne fu così angosciato che perdettero quasi ogni speranza. È vero che un secondo sondaggio gli causò minor pena, cominciava a pensare che così doveva essere e che non poteva impedirlo, passo molto promettente sulla via della rassegnazione. Ma non era pur sempre felice. No, pareva tanto l'opposto di un uomo felice, che a sua figlia il coraggio venne meno. Sono Renato Nistico, ce l'avamo lasciati alla prima puntata della lettura di questa Emma e vi avevo promesso che avremmo appunto affrontato più da vicino il romanzo, qualche analisi particolare. Emma, come ogni buon romanzo, racconta l'evoluzione di un personaggio. La sostanza del carattere della protagonista, come avete ascoltato, è messa in campo dalla Austen come una specie di implicito problema sin dalla prima pagina. Lì è detto che i due più grandi guai di Emma sono quello di averle tutte vinte e la eccessiva considerazione che ha di se stessa. La sua intelligenza la porta a credere prespicuo per lei ogni avvenimento che accade nel microcosmo di Highbury, avvenimento che riguarda sia i fatti sia, diciamo, i sentimenti della piccola comunità. Qui bisognerà aprire una parentesi, secondo me, per dire che forse ingiustamente la Austen è stata definita, sino a partire dallo storico intervento di Sir Walter Scott, come una sorta di paesaggista della vita sociale della classe media dell'Inghilterra del tempo. In verità l'Austen tanto descrive quanto, a mio avviso, inventa. Inventa sia da un punto di vista socio-antropologico. Ora prendiamo la conversazione, che è ritenuta una delle vette più alte della sua arte. E la conversazione di Austen con le sue arguzie, la sua ipotassi vertiginosa, le sue rigide maniere, è più un modello, voglio dire, che una registrazione della realtà. E poi anche dal punto di vista della concezione della realtà stessa, che a mio avviso ha quantomeno due livelli. Ciò che appare dell'esito o presupposto che sia, e siamo al primo livello, e ciò che sta nascosto dietro all'apparenza e alle aspettative. È come se noi vedessimo l'ordito, ma la trama ce la svela una ulteriore investigazione dei fatti. Nell'universo della Austen ci sono, a mio avviso, molte più opinioni che non fatti. Anzi, le opinioni vengono fatte diventare fatti, mi si perdoni il gioco di parole, come quando ad esempio la Austen abilmente fa ruotare una riga di ipotesi intorno all'improvvisa comparsa di un pianoforte, no? Vi ricorderete, nella casa delle Bates e di Jane Fairfax. Le opinioni, o meglio, quello che la comunità sa dei protagonisti a dispetto della loro coscienza, un po' come sarebbe accaduto nei Malavoglia di Verga alla fine del secolo, a tutt'altra latitudine, fa diventare decisivo nelle strategie comunicative di Highbury il rito ironico della first communication, come detto nel testo originale, la prima comunicazione, o meglio first information nel testo originale. Pensiamo ad esempio a quelle che riguardano la povera Harriet, quando tutti, o almeno qualcun altro, sa già quel che di decisivo la riguarda. Il capitolo chiave dal punto di vista narrativo e drammatico è appunto quello nel quale la realtà prende il sopravvento nella coscienza di Emma, che fino ad ora era onnipotente ovviamente, e lei si rende conto della fallacia delle sue previsioni e del conseguente dolore che aveva recato ad Harriet, e avverte anche la cattiveria talvolta gratuita, come ad esempio nei confronti della povera Miss Bates, oppure quando spettegola con Mr. Churchill sull'adulterio presunto di Jane Fairfax. Insomma, gli eventi della vita cambiano Miss Emma Woodhouse, la sua intelligenza viene temperata dall'esperienza. Trionfa alla fine il buon senso, che potremmo definire, con una categoria forse vecchia, la costruzione ideologica della classe di mezzo. Questo buon senso delle emozioni, una sorta di pensiero emozionale o forse di emozione pensante ante litera, è la forza che dura della narrativa della Austen e la rende tuttora un classico indiscutibile. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, traduzione di Bruno Maffi, postfazione di Renato Nisticò, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it